GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La regione decide sull'emergenza caldo dalle 12.30 alle 16, stop al lavoro all'aperto e nei luoghi dove non siano garantite condizioni sostenibili. Svastiche sui muri nel rione di San Giovanni a Trieste. Il Partito Democratico dice segnali inquietanti in contraria alla convivenza. Al Magazzino delle Idee di Trieste, le affinità di confine, la mostra che esplora un secolo di architettura transfrontaliera. Tra 10 giorni a Lignano, il meeting Sport e Solidarietà, 100 professionisti, tanti giamaicani per un'atletica inclusiva. 12.31 minuti, buongiorno da Daniele Lettig e Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, anche il Friuli Venezia Giulia segue quanto deciso nei giorni scorsi da altre regioni del paese per tutelare la salute dei lavoratori in questa fase climaticamente torrida. Sentiamo. L'ordinanza sarà in vigore da subito fino al 15 settembre. Fa riferimento a quanto già stabilito da altre regioni in materia di tutela della salute. Stop all'attività lavorativa tra le 12.30 e le 16. Riguarda le aree all'aperto su tutti i cantieri edili, ma anche quelli stradali, aziende agricole e florovivaistiche, le cave, ma anche gli ambienti indoor, dove non siano garantite le condizioni di tutela dal caldo. L'ordinanza è stata predisposta dall'assessorato alla salute. Oggi al tavolo in regione erano presenti l'assessore Riccardi, insieme a Bini, attività produttive, e Rosolen, lavoro. Di fronte a loro le organizzazioni sindacali che avevano chiesto l'incontro. È un testo che segue le indicazioni del sito dell'INAI WorkClimate, dove sono indicate nei 3 giorni precedenti le zone ad alto rischio colorate di rosso. Verrà inserita anche una disciplina per evitare il pagamento di penali a carico delle imprese nel rimandare la data di consegna dei materiali. L'ordinanza è disciplinata dall'articolo 650 del Codice Penale, che prevede sanzioni fino ad un massimo di 3 anni di reclusione per chi, datore di lavoro, non rispetta quanto indicato. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E l'ondata di calore di questi giorni di inizio estate si fa sentire anche nei pronto soccorso della regione, dove aumentano gli accessi. 33 dal 1 giugno a oggi gli accessi ai pronto soccorso della regione codificati col codice emergenza calore attivato nell'ambito della sorveglianza regionale del servizio prevenzione, il numero più alto nei pronto soccorso dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, che ne ha codificati 10, 7 invece all'ospedale di Udine, 16 in totale in tutti i pronto soccorso dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, il resto in Asugi, un dato più alto rispetto a giugno dello scorso anno che ne ha registrati meno di 20 sui 100 dell'intera estate, ma va tenuto conto che è stato anche un mese meno caldo, comunque un dato che potrebbe essere sottocodificato rispetto agli accessi totali di questi ultimi giorni di temperature roventi, visto il quadro che viene riferito dagli operatori dei pronto soccorso che operano sul campo. In generale stanno aumentando gli accessi di anziani con più patologie e pazienti fragili, disidratati e con sincopi, i sorvegliati speciali. All'ospedale di Cattinare, al Maggiore di Trieste, per esempio, dalla scorsa settimana gli accessi ai pronto soccorso per queste fasce di popolazione si segnalano già aumentati notevolmente, fino al 15% in più. Risultano in aumento anche nei pronto soccorso dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, nonostante la situazione sia ancora sotto controllo, e conto il mezzo che registra anche un lieve aumento di accessi di turisti con malori per le alte temperature che non risparmiano nemmeno la montagna. E il gran caldo sta determinando anche l'effetto collaterale dell'aumento di accessi di anziani soli senza una rete familiare o assistenziale cui fare riferimento, che cercano riparo nei pronto soccorso anche in assenza di una patologia acuta vera e propria. In tutti i casi l'allerta è alta nelle strutture sanitarie che si stanno organizzando per far fronte alla prevedibile ulteriore crescita della domanda di assistenza. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo allora la situazione del meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso, le temperature delle 11 a Trieste 34 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi, a Udine 34, a Gorizia 33, a Pordenone 31, a Tolmezzo 31 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 28, a Sappada 25, sul Piancavallo 24, sul Monte Lussari 20 gradi, sullo Zoncolan 19, a Grado e a Lignano 30 gradi, temperatura del mare 27 e mezzo. E queste sono le previsioni per oggi. Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno e locale nuvolosità pomeridiana sui monti. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta. Su tutte le località farà molto caldo, solo mitigato sulla costa dalla brezza del pomeriggio. Domani su pianura e costa cielo sereno, sui monti poco nuvoloso. Su tutte le località farà sempre molto caldo, mitigato sulla costa dalla brezza del pomeriggio. Ieri in regione è stata una giornata estremamente difficile sul fronte circolazione e trasporti, anche 10 chilometri di coda nel pomeriggio nella zona di Lattisana a causa dell'uscita obbligata in direzione Venezia dopo il ribaltamento di un tir. Non è andata meglio a chi doveva spostarsi in treno a causa del guasto sulla linea ferroviaria tra Monfalcone e Trieste. Abbiamo cercato di capire quali sono i punti deboli lungo questa tratta. Giornata nera quella di ieri a Trieste per la mobilità. Prima l'incendio di un auto articolato a Prosecco, chiuso il raccordo Sistiana Trieste, poi il grosso camion che si ribalta nel mezzo delle tre corsie sulla A4 e blocca per 4 ore la Tisana a Portogruaro, e infine il guasto della linea elettrica aerea di RFI al bivio d'Aurisina che ha causato gravi disagi dalle 13 in poi. 10 treni cancellati, 41 cancellati in modo parziale, 71 treni con ritardi da 1 a 3 ore. Trenitalia ha organizzato bus sostitutivi da e per Monfalcone e poi via vai di taxi di turisti diretti all'aeroporto, 2300 bottigliette d'acqua distribuite. RFI ha aperto un'indagine sulle cause, ma sembra che il guasto sia riconducibile al malfunzionamento del pantografo di una locomotiva merci. E per quanto appena possibile sia stato fatto ripartire uno dei due binari, la riparazione vera e propria è stata fatta nella notte. Quanto accaduto è inaccettabile e gravissimo, ha dichiarato in una nota stampa Furio Honse, il consigliere di Open Sinistra e FVG, il servizio ferroviario regionale, ha detto è inadeguato. Andrea Palese, che da 20 anni conosce bene la mobilità, tra i fondatori dell'unico comitato pendolari della regione, quello dell'Alto Friuli, dice resta ancora valido quello che ci diciamo da sempre: l'Italia si ferma a Mestre. Da oltre 40 anni la regione attende opere strategiche importanti, spesso bloccate da una speculazione eccessiva politica, ovvero da pseudo ideologie ambientalistiche. La Regione, solo nell'ultimo assestamento di bilancio, ha investito 10 milioni di euro nella modernizzazione di vecchi convogli in vista dell'adeguamento tecnologico in atto sulla linea Trieste-Venezia, con fondi PNRR. Si parla di quasi 2 milioni di euro. Resta il fatto che basta poco per isolare la città di Trieste. Cristina Mirante, assessore ai trasporti FVG. È vero, la linea purtroppo è unica che arriva a Trieste, quindi il problema di Trieste è questo. È chiaro che l'innovazione tecnologica e il lavoro in corso dovrebbero garantire in futuro una maggior stabilità della linea e minori interruzioni, tranne quando ovviamente capita un incidente. Insomma, ieri è stata una giornata molto sfortunata. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Con l'ausilio anche di un elicottero, a Osoppo sono iniziati i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico su struttura industriale più esteso d'Italia e tra i più grandi in Europa, quello che ha deciso di realizzare il gruppo Fantoni. Oltre 27.000 pannelli installati su 130.000 metri quadrati di tetti dello stabilimento produrranno oltre 13 gigawattora di energia all'anno, quanto serve per i consumi di 4.900 famiglie, evitando l'immissione di 4.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera, un beneficio pari cioè al lavoro di circa 130.000 alberi. Il mega impianto fotovoltaico coprirà il 5% del fabbisogno elettrico del gruppo. L'investimento è di 14 milioni di euro nell'ambito di un piano articolato da 250 milioni. Puntiamo non solo a emanciparci dalle oscillazioni del mercato dell'energia, ha detto il presidente Paolo Fantoni, ma contemporaneamente intendiamo ridurre l'impatto complessivo sull'ambiente. Già oggi, ha ricordato, il 100% dei pannelli truciolari e il 50% degli MDF sono prodotti con legno riciclato. Il Consiglio regionale ha approvato ieri alcune modifiche alle norme del codice dell'edilizia con l'obiettivo di semplificare i processi autorizzativi per opere legate all'installazione di impianti o alla realizzazione di pertinenze negli immobili privati. Approvato ieri in Consiglio regionale il disegno di legge 54, una legge di manutenzione del codice regionale dell'edilizia che risale al 2009 e che va a modificare alcuni disposti della norma, recependo parzialmente anche alcune indicazioni del decreto salva casa nazionale. Noi ci troviamo con Lucio Barbiero, che è il presidente dell'Ordine dei Geometri di Udine, per capire cosa cambierà per noi cittadini, ma anche per le categorie professionali che poi ci metteranno mano tutti i giorni. Sì, abbiamo approvato, ieri è stato approvato dal Consiglio regionale, la possibilità di avere una deroga del 10% e mantenere l'agibilità valida laddove ci sia necessità di fare degli isolamenti interni e andare in deroga appunto alla nostra legge regionale 44. Poi è stata recepita ed approvata la singola conformità per piccoli volumi che sono inseriti anche nella parte paesaggistica, compresa anche nella parte paesaggistica dei nostri piani regolatori. E poi abbiamo chiesto e la Regione l'ha riscritta e riapprovata e rimane in attività edilizia libera la possibilità di installare impianti fotovoltaici e solari termici fino a una potenzialità di 10 kW. Le tolleranze nella nostra regione che erano già dall'istituzione e approvazione della legge regionale 19 o codice dell'edilizia, che erano al 3% rispetto al nazionale che era al 2%, sono state recepite dal salva casa le possibilità appunto di tolleranze che sono dal 4% al 6%, allargando così la maglia e la possibilità di sistemare diciamo una parte del parcheggio edilizio che non aveva e non trovava soluzione appunto di conformità. Semplificando, se una casa non era norma non si poteva fare l'atto col notaio e quel patrimonio edilizio non poteva essere venduto, così viene sbloccata una parte di quel patrimonio. Sì, viene sbloccata una parte del patrimonio edilizio appunto che viene data la possibilità a questi proprietari, a noi professionisti, di portare a conformità edilizia anche diciamo quegli immobili che con le precedenti norme che erano più restrittive non si poteva fare. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Scatta anche in Friuli Venezia Giulia la protesta dei lavoratori delle farmacie dopo l'interruzione del confronto tra Federfarma e le organizzazioni sindacali che chiedono aumenti salariali. Respinta infatti dalle sigle sindacali la proposta di Federfarma di corrispondere solo 120 euro di incremento salariale per il prossimo triennio. Una proposta irricevibile, lontanissima da una richiesta, scrivono i sindacati, che fa invece riferimento a indici certi come il tasso di inflazione e la perdita del potere d'acquisto. Il disagio di lavoratori che svolgono ogni giorno un servizio essenziale alla cittadinanza è reale, concludono Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux con i segretari regionali Marica Baio, Diego Marini e Matteo Calabrò. Svastiche sui muri del rione di San Giovanni a Trieste, la denuncia arriva dal Partito Democratico che ha anche fotografato i graffiti e che manifesta profonda preoccupazione ed indignazione. Dopo la svastica tracciata nei giorni scorsi davanti alla scuola slovena di via Caravaggio, un nuovo simbolo dell'odio è apparso sul muro di un'abitazione di via Brandesia, un rione dove la comunità slovena è storicamente presente e radicata, scrive la nota DEM, definendo gli segnali inquietanti che riaprono ferite profonde della storia e rappresentano un'offesa alla convivenza civile, ai valori costituzionali e democratici. Un'indagine della Polizia di Frontiera di Gorizia, in collaborazione con i colleghi tedeschi e sloveni, ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale che gestiva il traffico di migranti dalla Slovenia alla Germania tramite l'Italia. Due cittadini iracheni, considerati i capi del sodalizio criminale, sono stati arrestati in Germania su mandato europeo. L'inchiesta era partita da tre arresti, rispettivamente di un cittadino tedesco e di due cittadini serbi che trasportavano illegalmente dei migranti, effettuati nel giugno 2024 ai valichi di frontiera di Gorizia. Le successive indagini hanno permesso di scoprire che l'organizzazione utilizzava appartamenti e B&B situati in Friuli Venezia Giulia per alloggiare gli autisti che si occupavano di far passare al confine ai migranti. Migranti che per il viaggio pagavano ciascuno somme tra i 6 e gli 8 mila euro. Adesso cambiamo argomento, sono diverse le attività estive dedicate ai detenuti del carcere di Udine organizzate dall'associazione Icaro insieme all'amministrazione penitenziaria. Ci sarà il laboratorio di poesia condotto da volontari insieme al poeta e scrittore Maurizio Mattiuzza, quello di teatro con l'attrice e regista teatrale Stefania Carlotta Del Bianco, ma anche corsi di scrittura. In programma ci sono corsi per conseguire la patente B, corsi di italiano per adulti, un progetto di sostegno alla genitorialità per aiutare i padri a mantenere vivo il legame con i figli. Abbiamo parlato con Roberta Casco, presidente dell'associazione Icaro, per sapere quali sono le motivazioni alla base di questo impegno. Le motivazioni sono diverse, nel senso che le attività di tipo culturale, come anche gli incontri con l'autore, il cineforum, il servizio di biblioteca, servono a portare stimoli positivi alle persone che vivono questa esperienza, a creare ponti con l'esterno, a creare degli spazi di ragionamento, di immaginazione, di evasione e di crescita personale soprattutto. Serve ad avvicinare gli ospiti, i nostri ospiti al mondo del carcere, diciamo renderlo più vicino, a fare in modo che il carcere diventi parte della città e che non rimanga un'isola che non ha nulla a che fare con la comunità esterna, ma soprattutto per l'attuazione dei principi costituzionali che mirano alla rieducazione, al reinserimento sociale. Quindi non si tratta assolutamente di buonismo o assistenzialismo, ma si tratta di partecipare, cioè del volontariato come azione civica di partecipazione, per sentirci responsabili del futuro delle persone che stanno vivendo appunto l'esperienza della detenzione, ma che sono chiamate a reinserirsi nella nostra società, a sentirsi parte della nostra comunità e a trovare una strada nuova che abbia a che fare con l'accoglienza. E quindi loro rientrano nella società e chiaramente se rientrano in un modo o in un altro cambia tutto. Assolutamente, assolutamente. Rientrare nella società sentendosi soli, non avendo appigli e soprattutto, come a volte accade, avendo paura, no, della libertà, perché magari a volte la strada che si conosce è quella sbagliata, diventa poi difficile, no, costruire un futuro diverso. Quindi le azioni sono tutte improntate a cercare di costruire un futuro diverso che abbia a che fare con il senso di comunità, il senso di appartenenza e il senso di responsabilità nei confronti della società esterna. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Qual è la consapevolezza dei detenuti in tema di diritti umani, civili e politici? È il tema del libro 44-44-44, a cura di Enrico Sbriglia, ex direttore del carcere di Trieste e garante regionale per i diritti della persona. Il libro, realizzato dall'Osservatorio Internazionale sulla Legalità di Trieste, permette di capire, sulla base di interviste e riflessioni, quanto sia conosciuto il tema dei diritti da parte di chi vive in carcere. Un aspetto fondamentale per comprendere anche il valore della pena e innescare il ripensamento sulle proprie azioni. Il libro sarà presentato alle 16.30 nella biblioteca del Consiglio regionale di Trieste. E adesso andiamo a Pordenone, dove c'è una start-up che opera nel campo della fermentazione di precisione. Abbiamo visitato i suoi laboratori. A Pordenone una giornata di studio dedicata alla fermentazione di precisione allo stabilimento di Arsenale BioYards, startup che opera nel settore delle biotecnologie con un impianto pilota. Abbiamo visitato il suo laboratorio di chimica analitica e i fermentatori su scala da laboratorio e su scala industriale. Massimo Portincaso è cofondatore e amministratore delegato. Le novità che stiamo portando avanti è sviluppare una tecnologia che rende la fermentazione di precisione finalmente sostenibile economicamente, perché ad oggi non lo è ancora su scala industriale. Come ci state lavorando? Utilizzando i dati come base di partenza, che è la grossa innovazione che stiamo portando, e collegando le due scale di produzione, il laboratorio e la scala industriale. Le applicazioni della fermentazione di precisione spaziano dall'industria alimentare a quella cosmetica, un mercato che solo in agricoltura vale 200 miliardi di dollari. Perché proprio Pordenone? Perché la capacità che c'è di mettere a terra l'acciaio che c'è qua non c'è in nessun'altra parte del mondo. Avremmo potuto farlo in Silicon Valley, avremmo potuto farlo in Germania, ma siamo qua e non solo siamo qua, ma stiamo portando talento dagli Stati Uniti, da Silicon Valley, qui a Pordenone. L'azienda, aperta da un anno e mezzo, conta 25 dipendenti e guarda al futuro. Dopo il prototipo che abbiamo già sviluppato, l'idea di costruire una fabbrica pilota sempre qui per 10.000 litri e poi passare nel 2029 alla prima fabbrica industriale che arriverà a una capacità produttiva di 1.200.000 litri. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Le affinità di confine, architetture tra Friuli, Venezia, Giulia e Slovenia, la mostra che sarà inaugurata stasera alle 18 al Magazzino delle Idee di Trieste. Sono esposte fotografie di edifici pubblici e privati al di qua e al di là della frontiera, per mostrare le somiglianze e le differenze di due territori divisi nel tempo e a lungo attraversati da vicende storiche diverse. Abbiamo sentito Guido Comis, che ha curato la mostra, per chiedergli quali sono queste affinità di confine. Le affinità di confine sono quelle memorie condivise, quegli stili condivisi che emergono dal confronto di architetture sorte in due territori che hanno avuto storie molto diverse per lunghi tratti, ma anche hanno delle radici comuni evidentemente, e anche quando però le strade sono divergenti e tuttavia si notano delle sorprendenti somiglianze. Faccio un esempio: le architetture razionaliste, che in Italia possono essere quelle caratteristiche più retoriche del fascismo, e quelle che invece in ambito sloveno possono essere quelle caratterizzate invece da un funzionalismo sovietico, possono essere confrontate e rivelano delle inaspettate somiglianze. Quindi, al di là delle differenze ideologiche, delle differenze storiche, ci sono dei temi comuni che è sorprendente riconoscere. C'è un dialogo? C'è sempre un dialogo, quello che abbiamo voluto sottolineare, un dialogo che appunto avvicina edifici pubblici, per esempio, anche se hanno funzioni diverse, luoghi commemorativi, ci sono anche non solo edifici, ma anche appunto spazi che sono stati pensati proprio come una funzione commemorativa, e si nota come anche, diciamo, l'enfasi sentimentale, ecco, può assumere forme simili, benché le circostanze, i motivi celebrativi possano essere molto diversi. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra gli spettacoli in scena oggi in regione, quello di stasera a San Vito al Tagliamento, in cui suonerà Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista jazz. Lo sentite in questo momento in una registrazione di qualche anno fa in trio, in un'esibizione solista che sarà più una riflessione musicale ispirata dalle fotografie di Euro Rotelli. Il concerto si terrà alla chiesa di San Lorenzo, proprio dove è allestita la mostra di Rotelli dal titolo Teatron, dedicata al corpo nudo. Il risultato sarà una fusione tra fotografia e jazz. Inizio alle 21 con ingresso libero. Segnaliamo alcuni appuntamenti a Cordenons. La rassegna Ogni biblioteca è una avventura, propone un omaggio a Kader Abdollah, scrittore iraniano protagonista del festival Dedica, alle 17.30 nel giardino del Centro Culturale Aldo Moro. Per il cinema l'attore Pierpaolo Spollone e la regista Antonio Padovan arrivano in Friuli Venezia Giulia per presentare al pubblico il film Come fratelli, alle 21.30 a Pordenone, al cinema Sotto le stelle nell'arena di Largo San Giorgio. E la SAF, Società Alpina Friulana, presenta Tra natura e quota, Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane, film realizzato in collaborazione con il CAI, che segue il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo lungo la storica via ferrata del procinto sulle Alpi Apuane, al cinema Citafiera di Torreanno di Martignacco alle 21. La comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali ospiterà nella sede di Meduno il seminario organizzato dal CEFAP dal titolo Prevenzione del rischio zecche e i cantieri forestali. Il seminario, destinato principalmente agli operatori del settore, è comunque aperto a tutti gli interessati e inizierà alle 17. E alla stazione Rogers di Trieste la presentazione del libro Che ne pensi? Le risposte di Luciano Semerani a Gianni Peteani, pubblicato da Edizioni Università di Trieste. Racconto di un'amicizia curiosa, ironica, nata tra politica e storia, visione dell'oggi e del futuro, alle 19. Gli speleologi del centro di ricerca carsiche Seppenhofer, con i colleghi del centro speleologico cagliaritano, sono in partenza per la seconda spedizione speleologica goriziana sui monti del Montenegro. La Montenegro Speleo Expedition è compresa nel programma di Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura. I monti del sud-est del Montenegro, non lontano dai confini con l'Albania, sono una zona inesplorata dal punto di vista speleologico. I risultati dello studio dei ricercatori goriziani, che condurranno un'accurata ricerca e rilevamento topografico delle eventuali nuove cavità scoperte e una mappatura dettagliata del fenomeno carsico superficiale, saranno illustrati il prossimo anno in una serie di appuntamenti scientifici internazionali. Saranno anche svolte delle ricerche sulla fauna ipogea, sulla vegetazione tipica del luogo. E oggi Shorts International Film inizia a Trieste alle 16 in sala Xenia, con specifici visori personalizzati per seguire le 11 storie della sezione Shorts Immersive. Alle 17 al Teatro Miela le proiezioni del programma Teens, e a partire dalle 21.15 il Giardino Pubblico accoglie le proiezioni dei corti del quarto blocco della sezione Maremetraggio. Lo sport in conclusione con l'atletica leggera. È stata presentata questa mattina a Udine, nella sede della Regione, la 36esima edizione del meeting Sport e Solidarietà, che andrà in scena a Legnano il 13 luglio. Saranno oltre 100 gli atleti professionisti che parteciperanno, tra cui, come ormai tradizione, una folta delegazione giamaicana, mentre la gara dei 400 ostacoli sarà abbinata alla lotteria benefica, il cui ricavato verrà destinato al sostegno delle attività della comunità del Melograno. Ci dice tutto il presidente e organizzatore del meeting, Giorgio Dannisi. Il meeting internazionale sarà preceduto da una giornata molto intensa, perché partiremo già dal mattino dando spazio ai master in una corsa che si svilupperà nella pista dello stadio Tegil di Lignano. Saranno circa 500 atleti, poi nel pomeriggio altri 700 atleti di tutte le categorie, per dare spazio anche agli atleti minori in una vetrina molto importante come quella del meeting. Poi ci saranno naturalmente le gare clou che partiranno alle ore 20, ci sarà anche la diretta su Rai Sport. Ci saranno 110 atleti per la gara internazionale, oltre una quindicina sono atleti che si trovano ai vertici mondiali, alcuni nomi, pensiamo per esempio a Van Nicken, che è il sudafricano che staziona tra l'altro a Gemona ed è prima pista del mondo, è campione mondiale ed olimpico dei 400 metri. Weir, che è il campione italiano, campione europeo del cetto del peso. Speriamo in questi giorni di poter avere con noi anche lo stesso Fabri, che è vice campione olimpico. Naturalmente abbiamo il gruppo dei giamaicani che sono sotto la nostra protezione, diciamo i loro tutor, già dal 2006. Sbarcheranno a Lignano tra il 4 e il 5 di luglio, una trentina di atleti e relativi poi accompagnatori. Ci saranno i big come Isaiah Thompson, che l'altro giorno porta a Kingston, ha corso il 9.75, sarà un nostro testimonial, Sherika Williams, che è la campionessa mondiale, e naturalmente tanti altri. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, in regia Samuel Montalto, Marco Ferrito, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Daniele Letti, Geri Tamicoli, grazie dell'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.